Vangelo di Giovanni, capitolo 18. Dette queste cose, Gesù uscì coi suoi discepoli di là dal torrente Chedron, dove era un orto, nel quale gli entrò coi suoi discepoli. Or Giuda, che lo tradiva, conosceva anch'egli quel luogo, perché Gesù s'era molte volte ritrovato là coi suoi discepoli. Giuda dunque prese la coorte e delle guardie mandate dai capi sacerdoti e dai farisei, venne con lanterne e torce ed armi. Onde Gesù, ben sapendo tutto quel che stava per accadere, uscì e chiese loro: «Chi cercate?» Egli risposero: «Gesù il Nazareno». Gesù disse loro: «Son io». E Giuda, che lo tradiva, era anch'egli là con loro. Come dunque ebbe detto loro: «Son io», indietreggiarono e caddero in terra. Egli dunque domandò loro di nuovo: «Chi cercate?» Ed essi risposero: «Gesù il Nazareno». Gesù rispose: «V'ho detto che son io. Se dunque cercate me, lasciate andar questi». E ciò affinché s'adempisse la parola che egli aveva detta di quelli che tu m'hai dato: «Non ne ho perduto alcuno». Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse e percosse il servo del sommo sacerdote e gli recise l'orecchio destro. Quel servo aveva nome Malco. Per il che Gesù disse a Pietro: «Rimetti la spada nel fodero, non berrò io il calice che il Padre mi ha dato?» La coorte dunque, il tribuno e le guardie dei giudei presero Gesù e lo legarono, e lo menarono prima da Anna, perché era suocero di Caiafa, il quale era sommo sacerdote di quell'anno. Or Caiafa era quello che aveva consigliato a giudei d'esser cosa utile che un uomo solo morisse per il popolo. Or Simon Pietro e un altro discepolo seguivano Gesù, e quel discepolo era noto al sommo sacerdote, ed entrò con Gesù nella corte del sommo sacerdote, ma Pietro stava di fuori alla porta. Allora quell'altro discepolo che era noto al sommo sacerdote uscì, parlò con la portinaia e fece entrare Pietro. La serva portinaia dunque disse a Pietro: «Non sei anche tu dei discepoli di quest'uomo?» Egli disse: «Non lo sono». Ora i servi e le guardie avevano acceso un fuoco perché faceva freddo e stavano lì a scaldarsi, e anche Pietro stava con loro e si scaldava. Il sommo sacerdote dunque interrogò Gesù intorno ai suoi discepoli e alla sua dottrina. Gesù gli rispose: «Io ho parlato apertamente al mondo, ho sempre insegnato nelle sinagoghe e nel tempio dove tutti i giudei si radunano, e non ho detto nulla in segreto. Perché mi interroghi? Domanda a quelli che m'hanno udito quel che ho detto loro. Ecco, essi sanno le cose che ho detto». E come ebbe detto questo, una delle guardie che gli stava vicino dette uno schiaffo a Gesù, dicendo: «Così rispondi tu al sommo sacerdote?» Gesù gli disse: «Se ho parlato male, dimostra il male che ho detto. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti?» Quindi Anna lo mandò legato a Caiafa, sommo sacerdote. Or Simon Pietro stava quivi a scaldarsi, e gli dissero: «Non sei anche tu uno dei suoi discepoli?» Ed egli lo negò e disse: «No, non lo sono». Uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse: «Non t'ho io visto nell'orto con lui?» E Pietro da capo lo negò. E subito il gallo cantò. Poi da Caiafa menarono Gesù nel pretorio. Era mattina ed essi non entrarono nel pretorio per non contaminarsi e così poter mangiare la Pasqua. Pilato dunque uscì fuori verso di loro e domandò: «Quale accusa portate contro quest'uomo?» Essi risposero e gli dissero: «Se costui non fosse un malfattore, non te l'avremmo dato nelle mani». Pilato quindi disse loro: «Pigliatelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge». I giudei gli dissero: «A noi non è lecito far morire alcuno».